Effetto Mondo. Wir wissen ganz genau, natürlich, wenn Deutschland und Frankreich einig sind, ist nicht Europa sich einig. Aber wenn Deutschland und Frankreich sich uneinig sind, dann ist es mit der Einigkeit Europas nicht besonders gut bestellt. Inconfondibile la voce di Angela Merkel. Ciao Giulia, buongiorno. Ciao, buongiorno Alessio. Sì, è uno degli estratti della conferenza stampa tenuta dopo l'incontro con Emmanuel Macron, dove dice la Francia e la Germania non sono tutta l'Europa, ne siamo consapevoli sia io sia Macron, però se noi cominciamo ad avere una visione comune è importante e possiamo anche avere così una moral suasion sugli altri, e quindi sono ottimista per i negoziati. Ha parlato dei prossimi appuntamenti di luglio ed è sembrata cautamente ottimista. Le hanno anche chiesto, e di questo viene riportato anche dai giornali, come mai non avesse una mascherina, e lei ha risposto: non la metto se è possibile il distanziamento di almeno 2 metri, e se vado a fare la spesa la metto, ma non vi dirò mai dove vado a fare la spesa. Quindi tentato persino una battuta che, insomma, lo che per lei tedesco, esatto, è quello che è. Ha quasi del clamoroso. Giulia, però i giornali tedeschi, visto che siamo partiti dalla Germania, mi segnali che hanno in primo piano anche una denuncia che riguarda una rete di pedofili impressionante. Sì, è stata scoperta, diciamo, con uno sforzo congiunto della polizia e dell'equivalente della nostra polizia postale, quindi tutti quelli che cercano di controllare le attività illecite su internet, una rete di 30.000, ed è il titolo di prima pagina su tutti i quotidiani, sotto una foto notizia di Merkel e Macron, 30.000 pedofili. E questo tra l'altro si inserisce, ne avevamo forse parlato qualche settimana fa, sì, quando si era scoperto che il probabile assassino di Maddie McCain è un tedesco, erano già state chieste a gran voce degli inasprimenti sulle attuali leggi per qualsiasi tipo di abuso sui bambini, non soltanto sessuale come in questo caso, ma ogni tipo di violenza, anche tra virgolette solo psicologica. E questo naturalmente, scrivono i commenti, accelererà probabilmente questo processo, anche perché il Parlamento tedesco, ma va che strano, fa delle vacanze molto più brevi del nostro, quindi è una cosa che potrebbe già essere discussa nelle prossime settimane. Comunque l'editoriale della Frankfurter Allgemeine, sì, è Monstrous, cioè mostri, e parla appunto del fatto che ci dimentichiamo che nelle nostre società, probabilmente sono sempre esistiti, però ci sono queste sacche appunto di mostri, perché 30.000 pedofili in un solo paese, e tra l'altro probabilmente ce ne sono anche altri. Questo è quello che si è scoperto in questa mega indagine resa nota ieri. Giulia, abbiamo parlato anche noi prima di collegarci con te della svolta verde, insomma, di queste elezioni municipali francesi che, insomma, sono anche sui giornali in queste ore. Sì, infatti i giornali francesi così hanno un po' snobbato, se vogliamo dire, questo vertice, questo incontro con Angela Merkel. Invece ci sono delle bellissime fotografie di Macron in questi giardini che non sapevo esistere nella mia ignoranza, magari qualcuno li conosce, i giardini dell'Eliseo, che sembrano veramente una piccola giungla urbana, e lui sapientemente si è fatto fotografare lì mentre cammina nel verde. Le Figaro titola: Macron vuole verdizzare il suo quinquennato. Naturalmente è una reazione diretta, lo sappiamo, al risultato delle municipali, che per quanto con un'astensione record, però chi è andato a votare ha fatto capire chiaramente la preferenza per tutti i candidati che avevano un forte programma verde. Quindi le Parisienne, peraltro, dove sappiamo è stata riconfermata un sindaco di centrosinistra molto attenta alle politiche ambientali, che è Anne Hidalgo, Macron passa al verde, anche qui fotografato nei giardini dell'Eliseo, mentre la Croix titola velocemente verso l'ecologia. Quindi ci sono veramente, c'è una convenzione, addirittura ha parlato di una specie di patto con tutti i cittadini per il clima, perché certo ognuno deve fare la sua parte. Di fronte ai piani per esempio di Anne Hidalgo per limitare il traffico c'erano state delle proteste enormi, però a Parigi, in una grande città, si pensa all'ambiente anche limitando il traffico delle automobili. Quindi sono scelte difficili da fare e che costano in genere un prezzo politico. Quello che forse hanno dimostrato, scrive Le Figaro, queste elezioni, è che forse adesso il prezzo politico lo paga chi non si dimostra attento all'ambiente. Elezioni che sono una conferma di quanto avvenne già con le europee, con affermazioni anche in Francia del Partito Verde. Qua siamo, diciamo, in una declinazione municipale, quindi una conferma con anche elezioni di sindaci. Stati Uniti, Giulia. Sì, negli Stati Uniti invece, se vuoi, sentiamo la voce di un'altra donna, oggi tutte donne, che è la nostra amica, tra virgolette, perché so che tra gli ascoltatori c'è anche chi non la ama, Nancy Pelosi, la leader del Partito Democratico alla House of Representatives, che ieri ha un po' reagito, perché la nuova grana di Trump è questo scoop del New York Times, ma poi ci sono state molte conferme, l'intelligence americana, cioè i servizi segreti americani, avrebbero avuto notizia di questo tentativo di corruzione da parte della Russia di talebani o mercenari vicino ai talebani per uccidere deliberatamente, fuori da ogni regola di ingaggio di guerra, i soldati americani o della coalizione occidentale in Afghanistan. E Trump pare non sapesse nulla di questa possibilità, e quindi sentiamo Nancy Pelosi. But it seems clear that the intelligence is real. The question is whether the president was briefed. If he was not briefed, why would he not be briefed? Were they afraid to approach him on the subject of Russia? Un aiutino, Giulia, al solito? Sì, perché il tema è come sempre. Trump è qualche settimana che preferisce mandare avanti la sua portavoce, che ieri in conferenza stampa, e lo riportano tutti i giornali, ha detto che a Trump queste voci raccolte sul campo di questa operazione sporchissima della Russia, potremmo dire, a Trump non era stato detto. E Nancy Pelosi dice: può darsi che siano informazioni non vere, però le informazioni c'erano e andavano comunque, secondo la maggior parte dei democratici, ma devo dire anche secondo alcuni repubblicani, soprattutto se hanno un passato nelle forze armate, andava comunque informato il presidente. È una, siccome tocca i temi patriottici e ci avviciniamo al 4 di luglio, che è una festa nazionale, credo che questa sia veramente una nuova grana per Trump, insieme naturalmente agli stati che continuano ad avere problemi con i nuovi contagi, tra l'altro alla vigilia di un weekend lungo, quello appunto del 4 luglio, in cui tutti speravano di andare a farsi un po' di vacanza o un po' di spiaggia. Per esempio la Florida ha richiuso tutte le sue spiagge, ne danno naturalmente notizia a tutti i giornali, e in California anche ci sono dei lockdown parziali, sempre con questa formula: la mascherina ve la consigliamo, ma non sarete multati se non la mettete. Quindi c'è questa ambiguità che si contrappone, e lo sottolinea il New York Times, al modo, ad esempio, e ci cita proprio, in cui è stata gestito il lockdown, la fase 1, da noi o per esempio in Spagna, cioè molto strict, molto con delle regole precise che andavano rispettate, pena delle multe. Anche se sulla mascherina noi stessi adesso ci stiamo adagiando su un federalismo della mascherina in cui ognuna regione fa un po' come gli pare. Abbiamo ancora una trentina di secondi per chiudere, Giulia, che altro? Sì, a proposito, visto che abbiamo nominato la Spagna, è il paese da per certo la decisione dell'Unione Europea di escludere Stati Uniti, Messico e Brasile, e probabilmente anche Russia, quando verranno dalla possibilità di venire nell'area Schengen. Sì. E questo naturalmente già Trump aveva detto due mezze parole, che sarebbe stata una discriminazione inaccettabile, ma lo dice il Washington Post, fosse così sarebbe una decisione basata sulla scienza, cioè sul tasso di contagio, sull'aumento di contagi. Vedremo insomma nei prossimi giorni. Grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi, con Valeria Bernardi in regia, Luca Cremonese in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizi. Ciao, buona giornata.